sono qui, anche se certe volte non mi senti, sai. La mia vita è fatta anche di nuvole. Sono qui, custodisco i tuoi angeli e i tuoi sogni. Aspetto una carezza come la prima volta. Diamoci aria e libertà, amore, dolcezza, ascolto, tenerezza. Oppure solo una carezza come la prima volta. Sarò qui anche quando saranno passati gli anni, sai. C'è una vita oltre le nostre lacrime. Sarò qui insieme noi, navigheremo oceani e poi voleremo oltre questo orizzonte. Diamoci aria e libertà, amore, dolcezza, ascolto, tenerezza. Oppure solo una carezza come la prima volta. Prendi le mie mani e portami a ballare, correre in un prato come due farfalle. Prendi solo me che ce ne andiamo al mare, a farci accarezzare dalla brezza e il sole. Prendi le mie mani e portami a ballare, correre in un prato come due farfalle. Prendi solo me che ce ne andiamo al mare, a farci accarezzare dalla brezza e il sole.